vai, eccomi, sono Roberto, benvenuti ad un'altra puntata di Ciao Ragazzi sulla frequenza 88.5 FM 2RRR, la vostra alternativa. Eccomi, sono qua per un'altra settimana, la tosse mi... diciamo che c'è la tosse, però sta scomparendo. Come se vi ricordate la settimana scorsa me la sono fatta tossendo eccetera. Comunque io mi sento meglio, ma chi se ne frega di come mi sento io. Come state voi? Chiamateci al 9816 2938. Dunque, in questa puntata di Ciao Ragazzi le solite stupidate, però ci sono anche notizie dal mondo, annunci locali della comunità, e voglio anche dirvi che se volete mandare un sms, se volete o avete una richiesta, una dedica che volete fare, potete farlo inviando un sms al numero 0406 463 515. Ok ragazzi, spero che ci state, facciamo sti giochetti. Dunque, questa settimana un po' della solita musica, alcune canzoni che avete scusate, sentite già, qualche canzone che è abbastanza nuova, vediamo, c'è un po' di Neck questa settimana, c'è un po' di Jovanotti, che pensa positivo, il nostro amico Jovanotti, una canzone un po' vecchiuccia, Daniele Silvestri, un po' di Vasco Rossi, e poi un po' di Elisa, Nannini, un bel po' di musica per tutti voi, ragazzi, ragazzacci. Sta piovendo a Sydney, sta piovendo, che bello o che brutto. Sinceramente a me la pioggia non è che mi ispira più di tanto, ma dipende. La pioggia, sai, è una bella cosa magari di sera per farsi un po' di ninna nanna ascoltando la pioggia mentre cade, però francamente se io mi devo svegliare la mattina per andare al lavoro e sento che sta piovendo, non è mica qualcosa che mi fa molto piacere. Comunque, come state? Spero bene. Dunque, prima di questo programma vogliamo ringraziare a Jorge con il programma Una Dedicazione d'Amore, il programma in lingua spagnola. Lo vogliamo ringraziare, fa sempre ogni settimana un ottimo programma, seguitissimo da tante persone che lo seguono da tanto tempo, ha un audience molto leale. L'audience di Ciao Ragazzi è un po' vario, c'è un po' di tutto. Se voi volete parlare con Roberto potete farlo chiamandolo il 9816 2938, e c'è una possibilità che vi manderò in onda addirittura. E se volete mandarci un sms potete farlo allo 0406 463 515. Capitano? Spero di sì. Comunque, non perdiamo troppo tempo, perché, scusate, adesso vi metterò una canzone, vi metterò un po' di zucchero, e poi le notizie della settimana. State ascoltando a Ciao Ragazzi sulla frequenza 88.5, anzi vorrei fare una cosina che mi sembra un po' carina. Ma avete capito? C'ho un piccolo aggeggino qua in studio, non so che cosa ci fa al momento in studio sta cosa, però proviamo un po', giochiamo un po' con questo, come si chiama in italiano? Megaphone si chiama in inglese, come si chiamerà in italiano? Se sapete la risposta chiamateci. Dunque, adesso provo a cambiare le impostazioni, dunque. Fa cagare francamente quello, adesso questo, proviamo un'altra impostazione. No, era lo stesso del primo, ecco. Carina sta cosa. E questo? Ciao ragazzi, sono Roberto. Dunque, mi capite? Mi capite quello che sto facendo? Mi sentite bene? Dunque, questa è la notizia di Ciao Ragazzi del 22 aprile. Ho che basta adesso, vero? Dunque, queste le notizie della settimana. Sono Roberto, notiziario. Ciao ragazzi, della settimana che fu. Dunque, venerdì 20 aprile 2007. Iniziamo dalle notizie più recenti. Dunque, tra oggi e ieri si sono aperti i congressi dei Democratici di Sinistra e della Margherita. Da entrambi i partiti è sorta la volontà, in particolare da Romano Prodi, di proseguire il cammino del Partito Democratico. I due partiti hanno indicato come futuro leader Prodi. Fabio Mussi, leader del corrente sinistra DS, ha espresso una netta contrarietà al Partito Democratico, annunciando il distacco dal DS al 5 maggio. Intanto si sta discutendo sull'entrata del futuro partito nel Partito Socialista Europeo, cui sono favorevoli i DS e contrari la Margherita. Dunque, altra notizia del 20 aprile, un esemplare di Coqui comunel coqui, la piccola rana, cioè arborea tipica di Porto Rico, pare che sia in serio pericolo d'estinzione a causa di un fungo che sta proliferando più velocemente del normale a causa del riscaldamento globale. E quando ha affermato il professor Rafael Hoglar, esperto in materia, durante il primo giorno della conferenza internazionale sui Gaia e i cambiamenti climatici nell'Università di Rio Piedras a San Juan. Il professor Hoglar, scusate, ha messo in evidenza il fatto che il fungo, conosciuto come BD, cioè Batrachochytrium dendrobratidis, attacca la pelle degli anfibi uccidendoli. Scusate. L'estinzione di tre delle 17 specie di coqui, queste sono le rane, sempre secondo il professore, è da attribuirsi in gran parte a questo fungo, che nonostante sia stato scoperto piuttosto recentemente, nel 1998, già nel 1976 aveva causato l'estinzione delle specie del coqui palmato. Hoglar ha infine rimproverato il fatto che la comunità scientifica internazionale non avesse dato tanta importanza a questo fungo fino a quando non è stato pubblicato sulle riviste Science, che a livello mondiale già 200 specie si sono estinte a causa di questo fungus, cioè Batrachochytrium dendrobatidis. Spero di averlo pronunciato bene, spero di non aver offeso membri della comunità scientifica. Dunque, notizia del 16 aprile, lunedì 16 aprile, quindi quasi una settimana fa, comunque notizia davvero impressionante e inquietante. Etacombe nella Virginia Tech del Blacksburg Campus nello stato americano della Virginia. Stiamo parlando di almeno 32 persone che sono state uccise durante due distinte sparatorie. Secondo quanto riportato dal Fox News, che cita fonti della polizia federale, l'allarme sarebbe scattato alle 7.30 quando un uomo non identificato ha iniziato a sparare nel campus della prestigiosa università. Le autorità accademiche hanno immediatamente intimato agli studenti attraverso il web e gli schermi presenti nel campus di non abbandonare le aule in cui si trovano e di non girare per il campus. Tre ore più tardi, un altro uomo è giunto nella zona della facoltà di ingegneria e ha cominciato a girare armato all'interno delle aule. Gridava di cercare la propria fidanzata. Ha poi ucciso molti studenti, facendoli mettere in fila vicino a un muro come una sorta di esecuzione. Presenti molti studenti stranieri, fra cui almeno 15 di nazionalità italiana. La polizia ha identificato il pluriomicida, è uno studente sudcoreano di 23 anni, Cho Seung-hui. Adesso passiamo a un'altra notizia, parliamo del 16 aprile, sempre nella serata del 16 aprile, comitato di redazione del giornale La Repubblica ha annunciato uno sciopero della durata di 7 giorni, quindi dovrebbe finire tra pochissimo per noi. La notizia della protesta che bloccherà l'uscita del giornale fino a martedì 24 aprile è stata pubblicata all'interno del sito repubblica.it, i cui aggiornamenti verranno interrotti fino alla mattina del lunedì 23. L'azienda, stando al comunicato del CDR, ha deciso di non procedere a sostituzioni di giornalisti assenti per malattia lunga, in quanto non previste dal contratto. Viene inoltre contestato il rifiuto di accordi aziendali e di proposte di confronto a cui si aggiunge all'avvertenza per il contratto, il cui termine per il rinnovo è scaduto da più di 2 anni. Il sindacato ha inoltre riferito che con questo sciopero il CDR del giornale tenta di coinvolgere gli esponenti politici. E passiamo all'ultima notizia, coloro che hanno beneficiato dell'indulto, quindi questo stiamo parlando della legge Mastella, emanato sotto il Ministero Mastella, sono stati 25.694, l'11,1% di questi ha fatto rientro in carcere a seguito dei nuovi reati. Il dato ricalca in modo relativamente preciso le stime fatte prima dell'approvazione del provvedimento, che ha previsto lo sconto di pena di 3 anni, salvo che per gravi reati. Queste sono state le notizie di Ciao Ragazzi. E torniamo con... che cosa? Torniamo con un giorno nella storia, dopo questa canzone. Questo è Eros Ramazzotti con Un'emozione per sempre. Bentornati a Ciao Ragazzi, io sono Roberto e adesso passiamo alla nostra rubrica settimanale, cioè oggi nella storia o questa settimana nella storia. Dunque, questa settimana nella storia si parlerà di un argomento interessante, ho trovato abbastanza interessante. Si parla dell'inizio, oggi, nel 1954, l'inizio ufficiale in America del termine dell'esistenza della paura rossa. Dunque, il termine paura rossa, in inglese Red Scare, è stato applicato a due distinti periodi di intenso anticomunismo nella storia degli Stati Uniti, dal 1917 al 1920 e poi durante i primi anni 50. Entrambi i periodi furono caratterizzati da una diffusa paura dell'influenza dei comunisti sulla società statunitense e dell'infiltrazione comunista nel governo USA. Queste paure spronarono investigazioni aggressivi, e particolarmente nel periodo 1917-20, l'imprigionamento di persone che si riteneva fossero motivate dall'ideologia comunista o associate a movimenti politici comunisti o socialisti. Il termine viene molto spesso utilizzato, cioè questa paura rossa, che venne coiniato oggi nel 1954, il termine viene molto spesso utilizzato per descrivere l'atmosfera politica che aleggiava attorno alle persecuzioni politiche interne e le violazioni dei diritti civili, ma può anche descrivere le paure strettamente correlate durante la Guerra Fredda, di un imminente attacco agli Stati Uniti o ai loro alleati da parte dell'Unione Sovietica o della Repubblica Popolare Cinese. Il termine in sé è peggiorativo, sminuendo gli anticomunisti, implicando che le loro paure erano esagerate o isteriche. La prima grande paura rossa della storia americana occorse immediatamente dopo la rivoluzione russa del 1917, che portò alla caduta dello zar e all'ascesa di Lenin. Le paure di un piano comunista per rovesciare in maniera simile il governo degli Stati Uniti, innescati da una serie di attentati anarchici nel giugno del 1919, sono ritenute da molti come la causa che portò a Palmera Raids contro i gruppi anarchici, socialisti e comunisti, all'incarcerazione degli attivisti di sinistra come Eugene V. Debs, sfruttando l'atto sullo spionaggio del 1917 e l'atto sulla sedizione del 1918, e al processo al processo e all'esecuzione di Sacco e Vanzetti. Molti americani risposero alle più rozze manifestazioni della paura rossa, scartando le visioni anticomuniste della politica estera. Molte delle oltraggiose accuse del maccartismo, come la pretesa che il presidente Dwight D. Eisenhower fosse un comunista, sembrarono ora ridicole. Il dibattito se Alger Hiss davvero abbia lavorato per i servizi segreti sovietici continua tutt'oggi, si veda reazione al maccartismo. Questo è un puntino da vedere, maccartismo, cioè. anche se l'interpretazione della paura rossa può sembrare unicamente di interesse storico, a seguito della fine della Guerra Fredda e alla quasi scomparsa del comunismo come ideologia popolare, le divisioni politiche che creò negli Stati Uniti continuano a manifestarsi e la politica e la storia dell'anticomunismo negli Stati Uniti sono ancora soggetto di polemica. Una fonte di controversia è costituita dalle azioni intraprese contro la sinistra radicale durante i periodi di Palmer e McCarthy, che sono ritenute fornire una cornice storica per azioni simili contro l'Islam radicale a seguito degli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001. Un'analogia resa esplicita sia dagli oppositori di sinistra a tali azioni come l'Unione Americana delle Libertà Civili che dai propositori di destra come Ann Coulter. Dunque, questo è un giorno della storia. Dunque, nel 1954... Siccome no, questo termine di paura rossa è anche oggi ha dei significati interessanti. Dunque, siamo a... che ore sono? Sono le 23:31. Voi state ascoltando Ciao Ragazzi. Possibilmente più tardi faremo un collegamento con la Stefi, la nostra amica di Brescia. Chissà che cosa c'è da raccontarci la nostra amica di Brescia. Siamo in attesa di un collegamento con lei. Dunque, ci avrei un altro annuncio anche da leggervi, questo è importante perché siamo rimasti proprio agli ultimi momenti per avvalerci di questo, di questa cosa, cioè si parla dell'Italian Camp 2, punto esclamativo. Quest'anno il secondo Italian Camp si terrà a Narrabin per studenti di italiano, giovani italo-australiani e gente interessata. Lo scopo del camp è di migliorare la conoscenza dell'italiano tramite laboratori, giochi, film, musica, partite di calcio, eccetera. Ci saranno insegnanti di varie università, con un barbecue, l'Italo-Australian Youth Association, dunque offriranno un barbecue loro, e gli studenti si divertiranno a fare attività come il Trivia Night e Italian Idol. Bello. L'unica regola è di parlare solamente l'italiano per tutto il weekend. Il camp si terrà dal 27 al 29 aprile, costo solo $190. Per ulteriori informazioni e prenotazioni contattate Sandra Pitronaci all'indirizzo sandra.pitronaci@arts.ucid.edu.au, abbastanza lungo questo email, oppure contattateci direttamente a Ciao Ragazzi. I posti sono limitati, quindi sbrigatevi a fare la prenotazione. Quindi potete contattare il Dipartimento d'Italiano, sicuramente all'Università di Sydney, per contattare Sandra Pitronaci, oppure contattateci qui a 2RRR. Dunque l'indirizzo email nostro è ciaoragazzi2rrr@hotmail.com, oppure, scusate sta tosse, il nostro numero per SMS per ulteriori informazioni vi richiameremo 0406 463 515, oppure chiamateci nello studio al 981629398 durante il programma di Ciao Ragazzi. Non è che chiamate poi tipo non so mercoledì alle 4 quando non c'è qualcuno che vi può aiutare. Comunque questo è per l'Italian Camp, che sembra davvero interessante, un laboratorio di italiano praticamente per il weekend, si terrà a Narrabin, che è nelle vicinanze, mi sembra abbastanza interessante. Coloro che sono studenti di italiano interessati, giovani che vorrebbero partecipare a questo laboratorio, siete invitati a contattare Sandra Pitronaci all'Università di Sydney. Dunque, che cosa vi racconto? A questo punto che cosa posso raccontarvi? Vi posso raccontare che adesso manderò in onda una canzone di Daniele Silvestri. Questa è una canzone che è andata abbastanza bene a Sanremo quest'anno. Si tratta di La Paranza di Daniele Silvestri. Queste Ciao Ragazzi sulla frequenza 2RRR. Stavo ascoltando a Roberto che parla a non finire. Scusate, problemi tecnici, a volte succede, dunque, tu, ho sistemato tutto, tic tac, eccoci, scusate. Here with Roy Slaven, we're saluting the role played by all those volunteers who work in community broadcasting. Roy, they're tremendous people. They're fit, lively, with that hint of lewd that you'd want in a broadcaster. I've got my hat off. I've got my pants off. How are you seeing it today? Yes, I agree with you, actually. I'm a bit over the bonnet for them. I've loved community radio, as you well know, when I first started with a crystal set with Lithgow FM. And there were only one listener, i.e. Me. And there was only one broadcaster, i.e. me. But I was volunteering and I was putting my hand up. Sure, it was a humble beginning, but it gave me a start. And I congratulate all those volunteers who have contributed to community radio over the years. Thanks very much for that, Roy. And all volunteers, stand up, pat yourself on the back, and be proud of your role in community broadcasting. And keep at it! Bye now. Bentornati, scusate per quell'errore tecnico. Ecco, sì, un messaggio interessante, importante per coloro che sono interessati a essere fare un po' di volontariato qui alla stazione 2RRR. Potete farlo chiamando il nostro ufficio 9816-2988 e se volete presentare questo programma, ciao ragazzi, siete benvenuti anche a farlo. Dunque, il nostro indirizzo web è www.2rrr.org.au e il nostro email office@2rrr.org.au. State ascoltando, ciao ragazzi, spero che stiate bene, che vi state divertendo, siete in attesa delle partite sicuramente, se siete svegli o vi state guardando la gara di Valentino Rossi, questo è anche possibile, potrebbe anche esserlo. Dunque, parliamo un po' del COASIT. Il Comitato Assistenza Italiani è un'organizzazione not for profit che opera come centro d'assistenza per la comunità italo-australiana da oltre quasi 40 anni. Dai suoi modesti inizi alla fine degli anni 60, COASIT oggi continua a seguire i suoi obiettivi iniziali con efficacia, cioè assistere gli emigrati italiani tramite un coordinato programma d'accoglienza e promuovere sia la lingua che la cultura italiana in Australia. Sotto questi due primari obiettivi, COASIT opera grazie al contributo di professionisti bilingui di varie specializzazioni, quali psicologi, assistenti sociali, interpreti, eccetera. COASIT offre servizi di supporto per la varietà di problematiche che potrebbero affrontare i membri della comunità italo-australiana, da problemi burocratici, problemi familiari a problemi di tossicodipendenza e alcol. Oltre ad assistenza con problematiche di questo genere, COASIT si presenta come una risorsa immensa di materiali culturali, con una ampia video e biblioteca, oltre ai suoi eccezionali programmi di insegnamento della lingua italiana, sia ai giovani che ai più grandi. Per contattare il COASIT, chiamate lo 02 95 64 07 44, oppure 02 9564 07 44. Potete recarvi alla sua sede, cioè al 67 Norton Street, Leichhardt, oppure consultate il sito web www.coasit.org.au. State ascoltando a Ciao Ragazzi. Spero che state bene. Se non state bene, prendetevi una pasticca, sien da me. Dunque, abbiamo sentito Occhi all'inizio del programma, seguito da un'emozione per sempre di Eros Ramazzotti, classica sta canzone. Eros Ramazzotti, sei un grande, se ci stai seguendo chiamaci, Eros. Dunque, La Paranza, avete appena sentito La Paranza di Daniele Silvestri, canzone che è arrivato al vertice quasi, scusate, è arrivata al secondo posto di Sanremo, credo. Se mi sbaglio chiamatemi e correggetemi. Adesso una canzone di Ligabue, di un anno fa ormai, si tratta di Le Donne Lo Sanno. State ascoltando a Ciao Ragazzi e... purtroppo la nostra amica Stefi non potrà parlare con noi questa puntata. Comunque, ecco Ligabue con Le Donne Lo Sanno, è vero. Bentornati a Ciao Ragazzi. No, non vi preoccupate, sono solo io. Dunque, sono rimasti 15 minuti nel nostro programma. Credo che sarebbe opportuno se io ricordo ai nostri ascoltatori una cosina, cioè che esiste un organismo qui a Sydney che può offrire ai cittadini italiani, italo-australiani o anche il pubblico generale interessato a eventi di importanza, di respiro, di maggior respiro nella comunità italo-australiana di cose che riguardano eventi culturali. Cioè si tratta, inizio a leggere, dai, l'Istituto Italiano di Cultura di Sydney è l'organismo ufficiale dello Stato italiano, a quale obiettivo quello di promuovere e di diffondere la lingua e la cultura italiana in Australia attraverso l'organizzazione di eventi culturali per favorire la circolazione delle idee, delle arti e delle scienze. L'Istituto Italiano di Cultura di Sydney offre al pubblico australiano i seguenti servizi, dunque corsi di lingua italiana e corsi di civiltà italiana tenuti da docenti qualificati di madrelingua, due sessioni annuali di esami per ottenere il diploma di conoscenza della lingua italiana come lingua straniera, una biblioteca italiana a disposizione dei soci dell'istituto e degli studenti iscritti ai corsi di italiano per consultazioni in prestito di libri, videocassette, CD, DVD, riviste e giornali italiani. Servizio di informazione e documentazione sull'Italia nel campo culturale, per le manifestazioni concertistiche, per alcune mostre d'arte e per gli eventi di maggior respiro, l'Istituto si avvale della collaborazione. Oltre a ciò, è un ottimo punto di riferimento per bandi e concorsi disponibili per studenti interessati ad ottenere borse di studio per studiare in Italia. L'Istituto può essere contattato allo 02-9392-7939 oppure per email iicsydney@esteri.it. Oltre a quello c'è il fatto che il Consolato Generale d'Italia a Sydney è il più importante organismo punto di contatto dei cittadini italiani e loro discendenti con la pubblica amministrazione italiana. Il Consolato offre assistenza in materie relative all'immigrazione, pensioni, passaporti, autenticazione burocratica e informazioni generali sui servizi disponibili per cittadini residenti all'estero. Il numero di telefono del Consolato Generale di Sydney è 02-9392-7900, cioè 02-9392-7900, oppure al 45° piano del Gateway Building a Circular Quay in centro città. State ascoltando a Ciao Ragazzi, come lo sapete bene, ben sapete che state ascoltando a Ciao Ragazzi. Adesso vi propongo una canzone di Elisa, cioè Eppure Sempre. Questa è una canzone bellissima di Elisa, grande, grande Elisa. R, state ascoltando a Ciao Ragazzi, io sono Roberto, problemi tecnici da un lato e l'altro. Un saluto a Franziska che fa il montaggio per questo programma, sicuramente si sarà confusa quando ha sentito sta roba. Comunque, come state? Spero bene, se non lo sapete, scusate, io sto male, sto in radio, ma che succede? Comunque, se non lo sapete, questa puntata di Ciao Ragazzi si può scaricare da internet, è vero! In qualsiasi parte del mondo potete ascoltare a Ciao Ragazzi grazie alla tecnologia. Dunque www.2rrr.org.au, seguite i link e potete scaricare questa puntata di Ciao Ragazzi e ascoltarla o sul vostro computer o il vostro lettore MP3. Ciao Ragazzi in internet, immaginate, guarda che spettacolo, potete ascoltare questo programma anche in Italia. E se ciò è sicuramente ce l'ho, guarda, se ciò ascoltatori in Italia, voglio salutarli tutti affettuosamente, perché vi voglio un mondo del bene. Scusate, un po' di tosse. Dunque, un saluto a tutti i nostri ascoltatori in Italia, un saluto a tutti i nostri ascoltatori qua a Sydney. Spero che vi siate divertiti per questa puntata di Ciao Ragazzi, non è che sia stata una puntata particolarmente eclatante o interessante. Sai, un'altra puntata di Ciao Ragazzi, siamo arrivati a domenica, accendiamo la radio, mettiamola su 88.5, ascoltiamo Roberto che chiacchiera e vi mette qualche canzone in onda. Dunque, il programma è finito, adesso vi metto, la classifica non direi che l'ho fatta questa settimana, ho messo un paio di canzoni in onda a casaccio, e per coloro che ascoltano questa trasmissione in internet purtroppo non potranno ascoltare le canzoni perché non abbiamo i diritti per trasmetterli. Comunque, per coloro che stanno qui a Sydney, che ascoltano Ciao Ragazzi, questa canzone è una canzone che è arrivata a Sanremo anche quest'anno, non ha vinto ma è andata abbastanza bene. Si tratta del gruppetto Zero Assoluto, Sì, Zero Assoluto, hanno avuto diverse canzoni che hanno avuto abbastanza successo nell'ultimo anno e mezzo, diciamo. C'era Svegliarsi la mattina e Semplicemente, ve lo ricordate? Comunque, questa canzone, eccola, è appena prima di partire, la canzone presentata a Sanremo. Io adesso vi saluto, grazie per essere stati qui con me quest'altra settimana. Fate i bravi, se no vengo a casa vostra e vi do le botte. Ciao ciao, alla prossima!